Mi viene da Mentre sorridere perché no, con tutto il rispetto, perché Nicoletta è dolcissima, ma come dire, è una donna mignona, non è? Io sono invece un donnone di 1,80 m, mi viene da sorridere del fatto che lei potrebbe donare a me e io non a lei. Ecco qua. però Ma, da cioè. Patrizia dovremmo andare perché le tende di casa mia e di casa tua fanno pietà. No, allora le mie no, perché ho Sì, appena ristrutturato dai, casa, quindi non l'hai vista. Non cominciamo a dare dei non sono giudizi proprio inappropriati. No, sono Antonio, belle. Antonio così, Patrizia, un così, insomma, salutone. Antonio. le tende di Deborah, devo Ma dire, non è sono vero, così e ma non così. è vero. Cioè. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, ci hai riflettuto questo weekend? Cambia le Ma è un tende. giudizio, un commento del tutto inappropriato. Le ho fatte un anno fa ristrutturando tutta la casa, quindi non voglio riaprire il capitolo ristrutturazioni a casa mia. Piuttosto mi ristrutturo io, che forse è anche ora. Beh, sarebbe un bello scoop. Scherzi a parte, oggi abbiamo capito e abbiamo già anticipato che la parola d'ordine è ristrutturazione. È proprio così, Nicoletta, e come avrei capito, io se penso alla ristrutturazione, penso generalmente alla ristrutturazione di una casa, di un'abitazione. Con la legge di stabilità varata la scorsa settimana sono stati prorogati entrambi i bonus sugli interventi domestici e potremmo usufruirne fino al 31 dicembre 2014. Subito la parola per le anticipazioni al nostro ospite Cristiano Dell'Oste. È tutto vero, Cristiano? Sì, è così. Abbiamo il disegno di legge di stabilità varato martedì scorso dal governo che allunga di un anno la durata della detrazione del 50% per le ristrutturazioni, del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e del 65% sul risparmio energetico. Speriamo che i parlamentari, quando discuteranno appunto a Montecitorio e a Palazzo Madama della manovra di stabilità, non cambino le cose in corsa. E quindi 800 24 00 24 per tutti i vostri dubbi sulle ristrutturazioni in casa e sulla possibilità di usufruire di questi sconti fiscali. Però, cara Deborah, non ci sono solo le ristrutturazioni dell'abitazione, anche la nostra pelle, un po' come la nostra casa, la sua efficienza energetica, i suoi accessori, i suoi elettrodomestici. E possiamo ristrutturare e rimettere a nuovo anche noi stessi per ringiovanire, stare meglio. In questo caso noi non abbiamo bonus, purtroppo, ma abbiamo la nostra dermatologa e qua siamo molto contenti, la nostra derma amica, la dottoressa Riccarda Serri, presidente di Skineco, buongiorno. Buongiorno, che piacere essere qui nella nuova veste di Cuore Denari. Sono quasi emozionata. Siete bellissime Dai. E Cristiano, perché tu non ti sei emozionato per niente? Sono l'ospite che ti ha portato io. E non da ristrutturare, mentre noi, esattamente come le case, perché il nostro corpo in fondo è il nostro tempio, è la nostra casa, andiamo mantenuti al meglio e periodicamente certamente ristrutturati. 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter o scriverci, lo state già facendo, al 349 238 6666. Però qualche volta sentiamo il bisogno di ristrutturarci un po' dentro. A volte basta una parola per metterci in crisi, una battuta infelice, un giudizio negativo, un pettegolezzo. Possono produrre dentro di noi una sorta di, lasciatemelo descrivere come terremoto emotivo. Anche in questi casi ci sono dei modi per recuperare e ritornare in piedi, ricostruire un po' le nostre mura danneggiate. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Francesco Aquilar, psicologo cognitivo. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Quello che noi potremmo dire è che per ristrutturare noi stessi dal punto di vista psicologico dobbiamo vedere i motivi, e i motivi sostanzialmente possono essere per aggiungere qualcosa, per esempio per avere più gioia o più tempo o più denaro, o per togliere qualcosa, per esempio per avere meno rabbia, meno paura o meno tristezza. Gli ascoltatori potrebbero rispondere su qual è il motivatore per il desiderio di cambiare se stessi, e in questo modo poi potremmo aiutarli a andare avanti in questa intenzione assolutamente brillante. Grazie dottor Aquilar, noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguirci e ritorneremo con il dottor Aquilar intorno alle ore 12. A più tardi, dottore. A più tardi, grazie. E quindi oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori di risponderci su due aspetti. Pensando alla parola d'ordine di oggi, che è ristrutturazione, diteci dal punto di vista dei denari cosa vorreste cambiare nella vostra casa e anche che tipo di spesa avete preventivato per capire quanto vi potrebbero essere convenienti gli sconti fiscali. E dal punto di vista del cuore, cosa vorreste cambiare di voi stessi? Mi raccomando, anche oggi. Perché ridi? Perché già so dove vuoi andare a parare. Dillo tu allora. Superate la barriera rosa, il nostro numero verde 800 24 00 24, altrimenti scriveteci un messaggio oppure contattateci su Facebook, su Twitter. Possono rincorrerci da ogni parte gli ascoltatori. Adesso si parte. Salva Danaio. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti. Cristiano dell'Oste, allora pensiamo sempre alla nostra casa carina ma senza soffitto e senza cucina per decidere di rimetterla a posto, ristrutturarla. Ora c'è un po' di tempo in più. Cosa dovrebbe cambiare con la legge di stabilità qualora naturalmente in questa versione, nella versione attuale che conosciamo, avesse il via libera definitivo da parte del Parlamento? Diciamo che cambia soprattutto il calendario, nel senso che non vengono modificate, almeno nel progetto attuale, le regole per ottenere le diverse detrazioni fiscali dalle ristrutturazioni ai mobili al risparmio energetico, ma c'è più tempo per fare i lavori, sostanzialmente 12 mesi in più per tutte e tre le detrazioni che abbiamo appena citato e quindi maggior facilità soprattutto per chi in questo momento si sta trovando a progettare o pianificare un intervento, senza dimenticare che i piani del governo guardano anche più avanti, nel senso che sarebbe il piano tutto il 2014 con le detrazioni così come sono ora e ancora un anno, il 2015, con le detrazioni leggermente ridotte, leggermente rimodulate, sia quella per chi ristruttura sia quella per chi fa risparmio energetico, in modo tale da consentire anche a chi ci mettesse un po' di più a pagare le spese, a effettuare i bonifici di pagamento, di rientrare comunque in una parte delle somme appunto investite. Lo sconto fiscale, peraltro quello tradizionale, quello più conosciuto, quello che è diventato negli anni strutturale, quello del 36%, ritornerà appunto in questo formato a partire, se non ho capito male, dal 2016. Esatto, tornerà dal 2016 per gli interventi nei singoli alloggi, quindi dal 1 gennaio 2016 48.000 euro di spesa massima e 36% di detrazione. In condominio invece, per lavori come il cambio della caldaia o la tinteggiatura delle pareti esterne del condominio, tornerà dal 1 luglio del 2016, quindi cosa vuol dire? Che in condominio ci saranno 6 mesi in più per terminare i lavori beneficiando della detrazione maggiorata. Allora andiamo a vedere adesso i contenuti nel dettaglio, ricordando agli ascoltatori che possono intervenire in diretta al numero 800 24 00 24. Oggi ci ristrutturiamo, naturalmente parleremo di casa, ma parleremo anche della nostra casa, della nostra pelle. Lo faremo con la nostra dottoressa Serri, che è qua in studio con che noi, che tra l'altro ha una domanda proprio su questo argomento. Oggi facciamo così una caramba che sorpresa fra i nostri ospiti. Dottoressa Serri, abbiamo, sì, a disposizione uno dei maggiori esperti del tema. E infatti, e mi chiedevo, poiché sto facendo uno studio nuovo, uno studio professionale per il mio lavoro, anche uno studio rientra in questi vantaggi che sto imparando con estrema gioia e magari mi regalo pure un frigo nuovo? Ecco, uno adesso la gioia gliela lasciamo tramontare immediatamente. E diciamo di no, perché i lavori agevolati con le ristrutturazioni edilizie, con il bonus sulle ristrutturazioni, sono quelli negli immobili di carattere residenziale. Poi a certe condizioni possono rientrare anche quelli a uso promiscuo, ma questo non è il caso perché stiamo parlando di uno studio al 100% a uso professionale. finale. C'è però una cosa da dire, che la detrazione sul risparmio energetico, mm-hmm. diversamente da quella sulle ristrutturazioni, non è solo una detrazione IRPEF, quindi dall'imposta sulle persone fisiche, ma anche IRES, che è l'imposta che viene pagata dalle società di capitali. Quindi in determinati casi gli interventi sugli immobili strumentali agevolati dal 65%, come ad esempio il rifacimento delle finestre o comunque una coibentazione, possono essere utilizzati anche da una società di capitali, vuol dire una SRL o una SPA, però si parla insomma di interventi ben individuati che raggiungono determinate prestazioni energetiche. Quindi la dottoressa ha capito che il frigorifero non può metterlo nello studio, ma qualora volesse prenderlo in casa per la sua abitazione appunto, in realtà anche qui bisogna sgombrare il campo a qualche equivoco. Non è che comprando un frigo oggi il rivenditore ci fa subito lo sconto del 50% perché lo Stato ci garantisce questo sconto, non è così. Non è così, si tratta di una detrazione fiscale, quindi intanto si tratta di un beneficio che viene utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello dell'acquisto, quindi se compro oggi in unico o nel 730 del 2014, e viene utilizzato sotto forma di detrazione dall'imposta, quindi se io ho una detrazione di 500 euro andrò a togliere, a scontare questi 500 euro dall'IRPEF che io devo pagare, quindi certo. Abbatterò l'imposta dovuta. E poi l'altra cosa importante, molto importante, esatto. Che devo associare questo acquisto alla ristrutturazione contestuale. Esattamente, il beneficio non è a sé stante, non è che chi compra i mobili di per sé ha diritto alla detrazione, ma soltanto la detrazione è riservata soltanto a chi ha anche il 50% edilizio, quindi a chi ha fatto una ristrutturazione che può avere il 50% e ne beneficia. Certo. Attenzione, perché aver fatto i lavori e non avere la detrazione non è sufficiente. No, sai perché ho voluto precisarlo? Scusatemi se ancora mi intro, perché sento qualche pubblicità scorretta in circolazione, per cui insomma, siccome vogliamo non è fare chiarezza. Esattamente. E senti, Cristiano, tu ristrutturerai qualcosa oppure hai già fatto tutto? A casa tua è perfetta? Io rientro tra quelli che l'hanno fatto l'anno scorso. Come quindi... Deborah. Esatto, i due proprio, mi verrebbe da dire una parolaccia, però... scemoti che lavorano qua. Sanno tutto, ma non però, avevamo avuto anticipazioni. È il calzolaio che gira con le scarpe rotte. No, però c'è una cosa da dire importante che è stata chiarita dalle entrate con la circolare l'ultima di settembre. Vuoi dire che posso riaprire la pratica? Non proprio, però hanno chiarito che chi ha fatto i lavori di ristrutturazione beneficiando del 50% dal 26 giugno 2012 in poi può comunque applicare la detrazione sui mobili per mobili comprati, attenzione alle date, dal 6 giugno del 2013 in poi. Quindi in sostanza lavori fatti l'anno scorso per mobili comprati quest'anno consentono di avere la detrazione sui mobili. Guarda, non ci rientro neanche proprio se mi ci infilo dentro però, forza, perché ho finito tutto a Pasqua dell'anno volevo scorso. Volevo chiedere, tutte queste date le possiamo mettere sulla pagina di certo, Cuore Denari? Ma guarda Cristiano, tra l'altro oltre a magari scriverci una, come dire, tabellina corretta con le indicazioni, possiamo anche ritrovare tutti i suoi pezzi sul sito del Sole 24 Ore. Naturalmente. La esatto. pagina di questa mattina anche su tutte le misure per la casa contemplate dalla manovra di stabilità, infatti, tra cui anche le famigerate Tari, Tasi e via dicendo. Sì, perché il Sole 24 Ore sta facendo in questi giorni una serie di puntate sulla legge di stabilità. Quella di oggi era proprio dedicata agli immobili e abbiamo riproposto il calendario aggiornato delle detrazioni, che ormai comincia a essere complicato anche per gli addetti ai lavori. Non solo più per posso i cittadini. Solo immaginarlo. Nicoletta, aiutami con gli ascoltatori allora, perché ne vedo tanti. Mimma dalla provincia di Milano, Gianluigi da Roma e Angelo da Bologna. Intanto chiedo al nostro uomo dello studio, a Cristiano, di prepararsi. Forse anche lui vuole ristrutturare qualcosa di sé. Adesso hai la barba, sei giovane, ma magari qualche macchiolina, avrai anche tu qualche difetto. Piccolo difetto, qualcosa che non ti piace. È anche giovane, lui. No, anche lui ha da ristrutturarsi un po'. Papà, dopo dobbiamo fare la foto per Facebook. Mimma, buongiorno dalla provincia di Milano. Mimma, io desidererei sapere se la sostituzione di un termosifone dà diritto a un bonus fiscale. Grazie Mimma. Cristiano, l'impianto di riscaldamento. Allora, diciamo che gli interventi sull'impianto di riscaldamento sono inquadrati normalmente come manutenzione straordinaria, quindi se avviene all'interno di una abitazione, quindi di un'unità abitativa residenziale, dà sicuramente diritto alla detrazione del 50%, che è quella in versione, diciamo, classica per i lavori di ristrutturazione. Deve però fare, prima di eseguire questo lavoro, la cosiddetta certificazione energetica dell'abitazione per capire quanto la casa consuma dal punto di vista energetico, no? No, Non necessariamente. Se si tratta di, questa è una domanda importante, se si tratta di lavori che hanno il 50% edilizio, per intenderci, non serve nessun tipo di certificazione energetica. Se invece si va per esempio a cambiare anche la caldaia, la si sostituisce con una a condensazione, si vuole avere il bonus, quello più generoso, quello, esatto, del 65%. Il bonus del 65%, allora in questo caso bisogna fare una pratica che non richiede necessariamente la certificazione energetica, si può anche predisporre una documentazione semplificata, ma serve comunque l'intervento di un tecnico. Prima di andare a Gianluigi che ci chiama da Roma, dottoressa Serri, a proposito di pelle, anche a pelle, figlio da pelle, ti faccio fare il proverbio. Dottoressa Pelle è bellissimo. È bella perché Serri e pelli. Sì. A proposito di ristrutturazione energetica, anche la nostra pelle, a mano che gli anni passano, cambia, le cellule rallentano la loro attività e vanno in debito di energia. Così ci ritroviamo con la pelle un po' spenta, opaca, secca. Possiamo aiutarla intervenendo a vari livelli, questo lo sappiamo, dalla dieta a trattamenti più mirati come ad esempio le famose punturine biorivitalizzanti. Ma andiamo per ordine, partiamo dalla dieta, perché anche le cellule epidermiche si nutrono. Certo, ed è veramente importante imparare a mangiare bene, perché è quello che ci consente poi non solo di far star bene tutto l'organismo, ma di avere una pelle più bella, più giovane, più compatta, più reattiva e più anche difesa dagli insulti esterni. Per cui noi abbiamo bisogno di amminoacidi, che sono i mattoni che vanno a costituire le proteine. Le proteine sono ciò di cui siamo fatti noi. Un po' come i mattoncini di una casa. Esatto, perfetto. I mattoni di una casa. Poi noi abbiamo bisogno di sali minerali, enzimi, vitamine presenti in frutta e verdura, ma abbiamo bisogno anche di energia. L'energia ci arriva dagli amidi, dai carboidrati che devono essere sani, cioè le varie merendine, cibi confezionati, fast food non sono un toccasana, possono essere mangiati ogni tanto in emergenza, ma non fanno benissimo. L'imparare a mangiare bene, a scegliere bene, eventualmente integrare con dei supplementi tipo vitamine, minerali, o per esempio gli omega 3, per esempio i minerali, le vitamine antiossidanti, aiuta moltissimo non solo a stare meglio, quindi a mantenerci al meglio, ma anche avere bisogno poi di meno ristrutturazioni con biorivitalizzanti o a ottimizzare le eventuali ristrutturazioni man mano che gli anni passano. Perché lì bonus non ce n'è, cara mia, e niente. Ma il bonus è dato dallo stare bene e dall'essere più performanti. Meglio stai, più lavori, più ti concentri, più sei produttivo, e l'aspetto nel senso di luce che emani, e se tu ti senti sicuro di te è bello, emani più luce, hai anche più facilità a essere assunto, a lavorare e a avere dei buoni rapporti di lavoro. Gianluigi, buongiorno da Roma. Buongiorno, io avevo intenzione di mettere dei condizionatori a pompa di calore e quindi sfruttare i bonus per il risparmio energetico. La mia domanda è, devo per forza affidarmi a un installatore venditore, quindi con un bonifico effettuare sia il comprare i condizionatori e anche la messa in opera, oppure posso acquistarli personalmente e poi affidarmi a un installatore? E in questo caso come faccio a accumulare la somma da detrarre? Grazie Gianluigi. Allora, come dire, qua l'acquisto e la manodopera sono due operazioni distinte. Sì, nulla vieta che si proceda come sta facendo, come vorrebbe fare il nostro ascoltatore, nel senso che l'importante ai fini della detrazione è avere le fatture che dettagliano bene che cosa si è andato ad acquistare, pagare con bonifico parlante, per intenderci, quello che riporta i dati che tante volte abbiamo ricordato anche a Salvadanaio, e farsi fare a questo punto poi un'altra fattura dall'installatore e pagare anche questa con un bonifico parlante. Le spese per l'installazione, per la posa in opera, sono sempre detraibili. Tra l'altro possiamo ricordare che sono detraibili anche le spese di trasporto e montaggio dei mobili, per intenderci, quindi non soltanto quelle per l'acquisto in senso stretto del, del mobile, anche se poi spesso i rivenditori, soprattutto no, quelli che non sono grandi catene, tendono a fare un'unica fattura in cui includono anche il trasporto e montaggio. Ci fermiamo magari, sì, ci fermiamo, intanto rinnoviamo ai nostri ascoltatori la nostra domanda di cuore di denari. Che cosa vorreste ristrutturare in voi, della vostra pelle e del vostro viso, dentro e fuori, perché aspettiamo anche il dottor Aquilar che lavorerà sulla nostra autostima. D'altronde sono sempre investimenti, perché anche nel benessere naturalmente chi ci spende un po' di soldi investe per il proprio benessere, direi, non so se ho colto. Ti bacerei. Cuore e denari. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? Ed eccoci ritrovati in diretta, stiamo sempre parlando della ristrutturazione della nostra casa, ma anche di quella di noi stessi. Nicoletta, ricordiamo la domanda per i nostri ascoltatori. Certamente, diteci una cosa che volete cambiare, ristrutturare di voi stessi, una cosa che volete o vorreste ristrutturare della vostra casa. E noi con i nostri esperti vi spiegheremo come fare all'800 24 00 24, un numero verde per superare la barriera rosa. Che salutiamo naturalmente, la nostra Rosa al centralino e anche tutte le altre colleghe, ma c'è anche il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, c'è Facebook e c'è anche Twitter. E con noi Cristiano Dell'Oste, c'è un bonus per tutti i lavori di ristrutturazione in casa. In questo momento vale il 50%, questo significa che se spendiamo 20.000 euro per fare dei lavori, lo Stato in un tot di tempo ci rimborsa, ce ne rimborsa 10.000. Esatto, il tot di tempo tra l'altro sono 10 anni e quindi sono 10 rate annuali che consentono di recuperare appunto metà dell'importo speso. Ovviamente serve spenderlo l'importo, questa è una cosa che spesso abbiamo detto a Sala Danaio, insomma, ovviamente bisogna avere le risorse iniziali da mettere sul piatto, che in tempi di crisi non è poco. Certamente il vantaggio fiscale consente di recuperare una buona parte, certo, dell'investimento. Diciamo che in tempi recenti, con le difficoltà che hanno fatto le famiglie italiane a risparmiare qualcosa, magari a trovare, a scegliere delle soluzioni di investimento adeguate per risparmiare, hanno deciso di puntare sulla casa, qualora l'avessero appunto di proprietà, e fare dei lavori di manutenzione straordinaria proprio come investimento. Sentirei Angelo da Bologna e poi ritorniamo a Nicoletta Carbone. Angelo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica tutto. Allora, io sto ristrutturando una casa e siccome ho comprato una cucina e l'ho pagata in luglio, non sapevo del fatto del 50%, quindi l'ho pagato con assegni e ho tutti gli scontrini. Adesso cosa posso fare per recuperare il 50%? Angelo, purtroppo temo che non possa fare niente, perché intanto ha detto la parola sbagliata, assegno, quella giusta era bonifico. Sì, diciamo che allora la circolare di settembre delle entrate ha chiarito che si può usare anche la carta di credito o il bancomat. Purtroppo l'assegno è una di quelle cose che la stessa circolare menziona come non valide. Quello che potrebbe fare il nostro ascoltatore, però è una via piuttosto complicata, è quella di ripetere il pagamento, cioè di rifare il pagamento facendosi restituire l'importo versato dal rivenditore. È una via difficile, però è l'unica percorribile, certo, nel senso che se facesse un bonifico a quel punto potrebbe beneficiare dello sconto. Se è stato un buon cliente, Angelo, magari questo rivenditore un po' le viene incontro. Certo, un'operazione che si è definita a luglio, adesso ritornarci a riaprirla, però insomma tutto si può fare. Nicoletta. Dottoressa Serri, a proposito di ristrutturazioni, ci sono dei giorni che guardandoci allo specchio ci verrebbe voglia di fare una ristrutturazione radicale. A Cristiano no, ma a noi sì. Poi ingraniamo la marcia e mettiamo quella dell'autoironia, che è quella poi che ci aiuta, no, a vederci sotto un'altra luce, che è poi la luce giusta. Ma sino a qualche tempo fa chi doveva fare una ristrutturazione radicale doveva pensare al lifting. Adesso per fortuna ci sono delle alternative molto più soft, meno invasive e meno costose, e soprattutto che garantiscono anche un effetto più naturale. Andiamo dalle punturine biorivitalizzanti, ma che cos'hanno dentro poi alla fine? Allora, io però vorrei fare una premessa doverosa. Ci sono tantissime offerte in questo campo, punturine, biorivitalizzazioni, trattamenti, e tantissime promesse. Chiaramente tutto quello che si legge viene scritto anche per invogliare le persone a fare, certo, tutti questi trattamenti. Bisogna sempre passare attraverso il filtro di un medico serio, competente e che non vuole vendere merce, mm-hmm, ma vuole semplicemente fare il bene del suo paziente, il meglio per il suo paziente, per capire che cosa è più indicato per noi stessi. E non serve tutto, perché è come entrare in un supermarket e dire voglio comprare tutto. No, bisogna fare delle scelte precise, dei programmi precisi fatti su misura e fatti anche in base al proprio tempo, al proprio budget, alla propria salute, al proprio tipo di pelle. È molto importante. Non si può passare il tempo a migliorarsi, ringiovanirsi, cambiarsi, perché poi si arriva anche all'ossessione mentale. L'ossessione mentale non è mai salutare, cioè, certo, io tengo al benessere a tutto tondo dei miei pazienti, anche al benessere psichico. Quindi, partendo dal fatto che queste punturine, queste biorivitalizzazioni non sono la mano di Dio che cancella tutte le rughe, ma sono dei piccoli trattamenti medici seri, assolutamente efficaci se fatti nella maniera opportuna con le sostanze più opportune. E ora, sì, te lo dico subito. Quali sono? Quali, mm, sono? Ecco che si hanno grandi soddisfazioni. Si hanno grandi soddisfazioni perché la pelle è bravissima e la pelle risponde sempre molto bene quando è positivamente stimolata. Ma è meglio iniziare una ristrutturazione che ha più del mantenimento intorno ai 35-40 anni o aspettare che... Sono già un po' di tempo massimo. Allora, mi spiace molto dirlo, però è molto individuale, perché magari può succedere che una persona a 30 anni abbia degli eventi di vita particolari e vada incontro a un invecchiamento precoce, abbia più bisogno di un'altra che magari a 40-45 non ha ancora bisogno, per cui bisogna proprio guardare se stessi. Molto spesso queste biorivitalizzazioni o questi piccoli trattamenti possono essere il trigger, cioè il punto di partenza di un circolo virtuoso che porta a aver voglia di prendere cura di noi stessi, di fare del bene a noi stessi, per cui se ben impostati sono molto utili anche dal punto di vista psicologico. Le biorivitalizzazioni consistono nell'iniezione locale attraverso aghini sottilissimi di sostanze che in genere sono acido ialuronico, una sostanza che è presente nella nostra pelle, nel derma in particolare, ma anche nelle articolazioni, e è molto utile proprio a dare sostanza, a dare idratazione, a mantenere il turgore, a fare da reservoir di acqua. Quando è più compattato, l'acido ialuronico diventa filler, cioè ricrea volume e ammorbidisce i volumi. Quando invece è più leggero fa da booster, fa proprio da biorivitalizzante, biorigenerante. Però si possono anche iniettare come biorivitalizzanti sostanze come amminoacidi, i famosi mattoni che costituiscono le proteine, che vanno a aiutare le cellule che producono le fibre che mantengono la pelle compatta a produrre più fibre. Si possono iniettare vitamine, si possono iniettare enzimi, eccetera. Le iniezioncine, le punturine famose, sono assolutamente controindicate in due situazioni. In chi ha la fobia degli aghi, sì, perché io non vedo perché per migliorare una persona debba andare incontro a crisi, ci sono, certo, altri trattamenti che si, certo, possono fare, e in chi si aspetta i miracoli. Ecco, va bene, è stata chiara. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione, e ha colto l'occasione al volo Mirella dalla provincia di Vicenza. Mirella, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Niente, una cosa, io ho 60 anni, sono anche contenta della mia pelle perché non è che abbia rughe particolari, però le macchie, quelle, sì, macchie marroni, fastidiosissime, brutte da vedersi. Io uso creme solare, protezione 50, praticamente 365 giorni all'anno. Ma le macchie rimangono, ma le macchie si possono schiarire, sì, dottoressa Serri? Certamente, le macchie si chiamano lentigo e a me piace chiamarle lentigo solari, non lentigo senili come le chiamano i dermatologi maschi. e vengono nelle zone fotoesposte, viso, dorso delle mani, avambracci e décolleté. Si possono togliere proprio radicalmente, magari con dei laser, con delle luci pulsate, e l'intervento è molto efficace. Oppure si può provare a usare delle sostanze schiarenti. Io in genere suggerisco un approccio di questo tipo. Iniziamo per 2 mesi a applicare tutte le sere un prodotto schiarente, e in farmacia ce ne sono diversi. Se si vede qualche risultato, vale la pena di andare avanti. Se si vede poco o nullo risultato, vale la pena di affidarsi a un dermatologo che asporterà queste laser, queste macchie con i laser e le strumentazioni più idonee. Posso fare una domanda sui soldi? Certo. Sai che mi riporto sempre in quella direzione, no? Perché parlavamo prima di ristrutturazioni di casa. Chiaramente, prima di fare questi lavori, io mi rivolgo ad un architetto, a un geometra, ad un ingegnere, ad un'impresa che mi fa un preventivo per stabilire quanto mi costerà tutta l'operazione. Dottoressa, vengono da lei anche con queste richieste? Vogliono sapere quanto costano tutti questi interventi? Ma certamente, e mi sembra assolutamente corretto. Giusto e corretto rispondere. Cioè, nello stesso tempo io noto però che molte persone, per risparmiare, tendono a andare ai discount medici. Ecco, questa sulla propria pelle io consiglio di stare attenti, prestare attenzione, parlare bene, ma di evitare tutti i discount e tutto quello che vado lì perché costa poco. Ecco, bisogna cercare di fare tutto cum grano salis, magari affidandosi anche al proprio medico di famiglia, che può indicare a chi rivolgersi. Abbiamo parlato di biorivitalizzazione, di punturine che insomma sostengono la pelle, che con gli anni tende a, un po' per l'effetto di gravità, penso, no? A cadere anche giù, sì. Spianano magari qualche ruga. Io però con la dottoressa Serri vorrei parlare tra poco di quello che viene chiamato il lifting del vampiro. Vero? Esiste anche questo, ne parleremo nel corso della trasmissione, quindi se volete sapere e avere delle info più dettagliate per un ringiovanimento che si vede proprio ad occhio nudo, 800 24 00 24. Intanto volevo chiedere un attimo di pazienza a Mariano da Trieste. Mariano, mi sente? Sì, le sento. Mi dà l'opportunità di mandare in onda i suggerimenti perché in viaggio, poi torniamo da lei? Grazie. Grazie, a tra poco. Cuore e denari. Stai ancora pensando alle tende di casa mia, tu? No, vedo, ti vedo da là. Ormai, guarda, con tutte queste ristrutturazioni radicali, le tende le lasciamo lì. Sono dolori perché sono operazioni molto costose all'interno dell'abitazione, però proprio per questo motivo da molti anni lo Stato viene incontro ai contribuenti restituendo gran parte del lavoro che viene effettuato, delle spese che vengono fatte. Allora, Cristiano Dell'Oste con noi questa mattina per parlare del pacchetto varato la settimana scorsa dalla legge di stabilità, che speriamo venga confermato in toto anche dai lavori in Parlamento. Intanto sentiamo, Cristiano, una domanda per te, anche se ce ne sono tantissime stamattina all'800 24 00 24. Peraltro ricordo anche che se volete continuare a scriverci, risponderemo in privato a tutti questi vostri quesiti. Sentiamo allora Mariano da Trieste, che stiamo facendo friggere da un po'. Mariano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Mia domanda è questa: io posseggo 2 case, una in affitto e una dove risiedo. Avendo fatto delle ristrutturazioni con il beneficio del 50% nella casa in cui è in affitto, e acquistato dei mobili nella casa qualche mese dopo, adesso dove risiedo, posso far valere per l'acquisto di mobili anche il 50% che so di avere per la ristrutturazione nell'altra casa? Grazie Maria. Scuote il ditino già, Cristiano. Purtroppo no, perché uno dei requisiti è che i mobili devono essere inseriti nell'abitazione oggetto dei lavori. Ma chi lo stabilisce se il divano è stato comprato per una casa o per un'altra? Risulterà dalla fattura e dalla bolla di accompagnamento di consegna dei mobili. Ma se poi in un secondo momento questo signore vuole spostarli? Allora, se in un secondo momento li sposta, può fare. Io però voglio farglieli comprare a Mariano, i divani, un ovvio. Attenzione al controllo poi che potrebbe essere fatto, nel senso che se vengono spostati dopo qualche anno va bene, se vengono spostati dopo qualche giorno, questa cosa si chiama illusione fiscale. fiscale e poi scatta. Quindi attenzione anche ai divani. Allora, Andrei, allora precisiamo un po', Cristiano, ancora per qualche minuto i termini di questo bonus che vale proprio per l'acquisto degli elettrodomestici. Specifichiamo il fatto che va fatta contestualmente una operazione anche di manutenzione straordinaria dell'abitazione, altrimenti non si possono comprare. Quindi ribadisco ancora, occhio alle pubblicità non troppo chiare. Certo, certo. Anche le radio ne mandano in onda qualche volta. Cristiano. Beh, diciamo che la tentazione fa l'uomo ladro, nel senso che poi la pubblicità punta un po' a invogliare i cittadini, i clienti a fare gli acquisti. Il punto è che bisogna avere un lavoro di ristrutturazione agevolato al 50%. Sui lavori che possono fare da presupposto c'è ancora un po' di confusione. La linea che abbiamo scelto, anche come Sole 24 Ore, per dare un criterio di orientamento ai cittadini, è quella di avere dei lavori che siano come minimo di manutenzione straordinaria e nel dubbio di verificare con l'aiuto di un geometra, certo, o di un altro tecnico che sia effettivamente una manutenzione straordinaria, perché non sempre le definizioni adottate dai comuni sono corrette, nel senso che il comune poi magari per esigenze di semplicità qualifica come manutenzione ordinaria un rifacimento integrale del bagno. Ecco, quello è un lavoro che invece dà sicuramente diritto al bonus mobili. Cristiano, per chi sta pagando a rate, perché ci sono degli ascoltatori che ci propongono anche questo aspetto, ammettendo appunto che si sia fatto il lavoro di ristrutturazione ma non si avevano tutti i soldi a disposizione, la cucina nuova per questa abitazione è stata comprata ma verrà pagata a rate. Dunque l'importante è il pagamento che viene fatto al mobiliere. Esatto, perché in questo caso si fa il prestito comunque con una finanziaria, per cui sono due operazioni diverse. Esatto, esatto. L'importante è che venga fatto il pagamento al mobiliere con una delle modalità indicate. Dopodiché, quindi bonifico, carta di credito, bancomat. Dopodiché, no assegno. No assegno e no contante. Esatto. No assegno e no contante. Dopodiché, benissimo. Dopodiché, se il rimborso delle rate alla finanziaria va avanti magari anche per un paio d'anni o per 3-4 anni, come a volte succede, questo non ha più a che vedere con la detrazione fiscale. Quindi si potrebbe in parallelo incassare le rate di detrazione dal fisco e pagare le rate alla finanziaria. Sentiamo l'ultimo ascoltatore. Ma volentieri, non l'ultimo, perché noi no, fino all'ultimo. L'ultimo, diciamo, sui temi della ristrutturazione degli sconti fiscali, direi. Francesco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, la mia domanda era, in poche parole, io ho fatto un saldo fine lavori e la ditta mi ha fatto appunto la fattura. Io, non potendo pagarla di tutto insieme, ho diviso le due tre rate. Le prime due rate l'ho pagata e ho segnato nella fattura, nel bonifico, detrazione del 50%. L'ultimo bonifico che ho fatto, mi sono dimenticato di segnare questo 50%. Posso in qualche modo recuperarlo oppure no? Avendo fatto le prime due fatture in modo giusto, ecco. I primi due bonifici. Grazie. Forse l'azienda può fare lo storno e lui rifare il pagamento. Bisogna vedere che cosa si è dimenticato di fare, nel senso che se ha fatto un bonifico, tra virgolette, normale, quindi senza indicare il suo codice fiscale, la partita IVA dell'impresa, allora quello è un bonifico che non va bene e l'unica cosa che può fare è rifarlo facendosi restituire l'importo, come avevamo detto prima. Qualora avesse invece fatto tutte le... quale indicazione potrebbe mancare? Potrebbe aver dimenticato di precisare magari nella causale che si trattava esattamente i termini di legge quel lavoro, allora in quel caso lì l'errore potrebbe essere ritenuto scusabile, se però ha messo gli altri elementi, quindi il suo codice fiscale, la partita IVA dell'impresa. Benissimo, Cristiano, abbiamo in programma qualche guida del Sole 24 Ore, so già che presto avremo qualche sorpresa in edicola, perché Cristiano è sempre al lavoro con appunto questi argomenti, per cui sappi che poi nel pomeriggio, no, perché in questi giorni sei in ferie. Vedi. Ricorda che da me vengono anche se sono in ferie, ma ti girerò molte domande dei nostri ascoltatori. Le domande le vediamo insieme. Abbiamo anche molti commercialisti che ci danno da mano, per cui grazie mille per essere stato con grazie noi e buon lavoro. Grazie. Allora, Cristiano non vuole ristrutturare nulla, dà consigli agli ascoltatori. Secondo di cuore me è un denari. Po' come tutti gli uomini, non vuole dirlo. Non lo dicono, ma... vero, dottoressa Serri? No, molti oggi cominciano a essere onesti, però guardando lui, è giovane, non ha alcun apparente difetto visibile, io spero che almeno però si mantenga, faccia sport, ecco, movimento. Visto che sono ancora qua, dia un consiglio più che altro a quelli che appunto pensano di non avere problemi particolari, ma magari vogliono fare un po' di prevenzione o evitare di trovarsi lì Poi tra Cristiano qualche è una anno. Persona che lavora fino alla sera molto tardi, per cui c'è anche questo aspetto che secondo me non è trascurabile. Certo, è molto importante, per esempio, fare delle passeggiate alla luce alla luce, luce non vuol dire al sole forte, tanto eccetera, adesso quindi camminare molto, camminare velocemente. L'organismo umano migliora le sue performance a qualsiasi età, anche se uno non ha mai fatto niente per 80 anni e inizia a 80 anni, a 80 anni può migliorare, figuriamoci a 36. Certo, la vita di un giornalista, che io conosco bene, il papà di mio figlio è un giornalista, e vedo come vivete voi giornalisti, è molto sedentaria, è molto stressante, per cui occorre cercare di mangiare meglio, evitare di mangiare solo una volta al giorno, abbuffandosi alla sera, tardi, per poi subito dopo andare a letto, limitare gli alcolici, aumentare frutta e verdura fresca, e iniziare a fare del moto e del movimento, lavarsi bene il viso mattino e sera, la pulizia è indispensabile, anche per chi ha la barba, usare detergenti ecodermo compatibile, qui non ci posso non mettere, imparare qual è il detergente migliore per il proprio tipo di pelle, e anche gli uomini, oddio, lui ha la barba, per cui anche suggerendo una crema, lasciamo, già si protegge, non lo so lasciamo più che cosa andare dirgli. Cristiano, grazie ancora. Noi torniamo verso le 12:07-8 con quale tema? Abbiamo bisogno di una ristrutturazione interna della nostra autostima, ma la dottoressa Serri è qui ancora con noi, aspettiamo le vostre telefonate. Cuore e denari. Rughe, rughette, piccoli cedimenti, macchie, borse, occhiaie. Quante volte guardandoci davanti allo specchio abbiamo pensato, accarezzato l'idea, adesso mi piallo un po'. Dopo l'urlo di dolore. Perché abbiamo magari fatto i conti, posso permettermelo. Perché i prezzi, dottoressa Serri, quali possono essere di queste ristrutturazioni non straordinarie, non chiamiamole così, ma di interventi di minima per mantenerci giovani? La forbice è molto ampia. Allora, passando da un prezzo minimo che va dall'uso di un buon detergente associato a un pannetto di microfibra per il viso che utilizzato bene mattino e sera può fare molto e può avere anche una piccola azione peeling quotidiana, quindi leggermente sfogliante, rivitalizzante, eccetera, eccetera. Questo e lì costa poco? Pochissimo. Possiamo avere tutta una gamma di spese possibili e di preventivi, dipende un po' dalla nostra situazione di base, da quello che noi ci aspettiamo e che vogliamo ottenere. A me piace la manutenzione, chiamiamola riarmonizzante, e la manutenzione che preserva e mantiene la naturalezza del viso. Non mi piacciono le facce di plastica e gli eccessi, non piacciono a me ma non piacciono neanche alla nostra pelle, perché infatti può averne degli effetti collaterali. Quindi bisogna semplicemente, poiché si tratta di trattamenti da impostare su misura per ogni singola persona, possono essere diversi, possono essere dei cicli di un solo trattamento, per esempio cicli di radiofrequenza, di biorivitalizzazioni, alternanze di diversi trattamenti, se ne parla semplicemente col medico di cui ci si fida, evitando, come dicevo prima, il discount e le offerte speciali che non vanno mai bene. Bisogna sempre rivolgersi a, non è mai lo strumento in sé che fa, non è mai il laser che fa, la macchina della risonanza o l'acido ialuronico, c'è sempre un essere umano, e questo essere umano è un medico che usa il biorivitalizzante, lo sa usare con la con la sua esperienza, giusta, e con certo. la sua valigia. Però purtroppo per questa ristrutturazione, chiamiamole così, facciale, ci scrive un ascoltatore, le detrazioni non ci sono. Eh no, non ci sono. Ma invece anche per esempio, faccio un esempio, se le detrazioni sono legate a qualche per problema. In certi casi, certo. Per esempio in chi lavora nel mondo dello spettacolo, le detrazioni ci sono, e come? Deborah. Perché io so che per esempio... E qua mi coglie di sorpresa, devo documentarmi. Nella RAI... Nella RAI detraggono quello che spendono, per cui ecco forse perché in televisione ci sono tutte non, belle, non, ma oppure, noi siamo no, della radio. Ma magari c'è una cassa di previdenza speciale per la quale, che ne so, forse i giornalisti possono chiedere, non lo so, devo documentarmi comunque. Lavora con l'aspetto esterno, per chi lavora con l'aspetto esterno c'è la possibilità, certo, però bisogna noi nessuno essere ci guarda, no? Attori, so se sono presentatori o assicurazioni private, bisognerebbe vedere, insomma. Andiamo. Essere e benessere. George Clooney ha rilasciato un'intervista a Max in cui ha detto che lui non si è mai rifatto, fatto, non ha mai fatto il lifting, neanche il botulino, ma si è fatto un intervento agli amici di Maria. Sì, ma no, ma era chiaramente una scemenza. Ha fatto un lifting che si chiama ball ironing. Che vuol dire lifting alle balls, te lo devo tradurre? Sì, ho capito. Dottoressa Serri, vanno molto di moda, eh? Un trattamento estetico sempre più richiesto è la labioplastica vaginale, si parla anche di questo. No, beh, sono 20 anni che se ne parla, perché quando facevamo gli incontri di dermocosmetologia medica e chirurgica a Saint Vincent dell'Università di Milano, e li organizzavo io, il direttore era il professor Ruggero Caputo, si parlava di ringiovanimento vulvare proprio anche con Alessandra Graziottin, per cui cioè, oggi se ne parla di più. E le persone non si vergognano, cioè ci sono queste donne ormai anche cinquantenni e oltre che forse si vergognano del loro apparato genitale esterno e vogliono dargli una rinfrescata. Se lo vogliono fare e se si sentono complessate da questo e se hanno una brutta qualità di vita per questo, why not? Non me la sento di chiedere il costo di questo intervento. Io non lo so neanche perché non eseguendolo e non mi sono mai informata, però ci sono però tanti colleghi che se ne occupano. No, posso dire che c'è un ragazzo, un signore che ci scrive Roberto e dice: la detrazione per i lavori di manutenzione, come lei diceva, dovrebbero valere anche per gli agenti di commercio, ovviamente professionisti che lavorano con il pubblico, con le persone. Diciamo che io ho parecchi pazienti che lavorano proprio con il pubblico. Mm-hmm. E che necessitano di una bella presenza. Allora uno pensa: faccio le punturine perché voglio assomigliare a chissà che, ma faccio le punturine perché voglio stare al meglio, esattamente come vado dal parrucchiere, mi vesto al meglio. Io volevo chiederle rapidamente, l'abbiamo prima di dare la parola al nostro dottor Aquilar, che già saluto perché vedo che è già in linea. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno. Si è scampata una battuta sulla labioplastica vaginale, ma noi ci ristrutteremo dal di dentro, ma un'altra interiorità. Il lifting del vampiro, che cos'è? Beh, questo è una cosa piuttosto simpatica e particolare. Si esegue un prelievo di sangue, il sangue viene centrifugato, viene estratto il plasma e dal plasma la parte più ricca di piastrine. Il trattamento si chiama PRP, Platelet Rich Plasma, e questa parte qui viene iniettata nel viso e nelle zone da rivitalizzare, nelle cicatrici, e ha un effetto rigenerante. Il medico che esegue questo trattamento deve nel suo studio avere l'autorizzazione a usare emoderivati in Italia, e in ogni regione il discorso è diverso, per cui da noi tutto è un po' complicato da questo punto di vista. È un trattamento efficace che io suggerisco essenzialmente per esempio alle persone che sono allergiche a tutto, al proprio sangue non possono essere allergiche, e però ha un certo costo proprio perché richiede autorizzazioni particolari, richiede l'uso di un certo kit che è piuttosto costoso, cui bisogna valutare il rapporto rischi-benefici. Una biorivitalizzazione più semplice in genere, che costa dalle 200 alle 300, 400, poi dipende anche molto dallo stato, quante, eccetera, eccetera, poi anche il medico va incontro al paziente molto spesso. Di questi tempi tutti ci stiamo venendo incontro, tutti siamo a cinghia stretta e tutti ci stiamo chiaramente aiutando, ecco che può essere interessante. Dottor Aquilar, noi con lei parliamo di una ristrutturazione che vogliamo fare per aggiungere caratteristiche positive o per eliminare caratteristiche negative. L'avevamo anticipata a inizio di trasmissione. Che cosa vogliamo avere? Più gioia, più tempo, più denaro? Oppure vogliamo ristrutturarci perché riscontriamo troppa paura, troppa rabbia, troppa tristezza? A quale categoria vi sentite di rappresentare? Superate la barriera rosa, perché all'ascoltatore che chiamerà per ultimo interverrà in trasmissione, che cosa regaliamo? Io direi un libro di Essere Benessere, non per fare, ma le guide sono magnifiche, No, se vuoi ci posso anche inserire una guida alle ristrutturazioni. Dai, per esempio, allora un regalo da cuore e denari. Dottor Aquilar, iniziamo allora a ristrutturarci un po'. Certo, e come tutte le ristrutturazioni, come si è visto per le ristrutturazioni ambientali o della pelle, anche la ristrutturazione psicologica richiede un investimento di tempo, di impegno e di denaro. E Se sono ristrutturazioni piccole, possiamo farle anche da soli, se si tratta di attintare una parete, non è una cosa difficile. Ma se sono più complesse, abbiamo bisogno o dell'aiuto di un buon libro, che ci consenta di far da sé in una maniera più articolata e ben fatta, o di chiamare un esperto. E il terzo punto è che dobbiamo mettere in calendario l'idea che c'è un tempo di attesa tra investimento per ristrutturare noi stessi e i risultati, è il cosiddetto tempo di latenza. Su quello dobbiamo mettere il cuore in pace. A proposito di cuore e denari. Esattamente. Bello, non è l'arrivo, ma il viaggio. Dottor Aquilar, alcuni ascoltatori, e devo dire che sono più ascoltatrici, mi chiedono un aiuto per recuperare, rimettere un po' in sesto l'autostima. Certo, è molto importante lavorare sull'autostima, ma diciamo che anche su questo tema ci sono due criteri principali. Al primo posto è l'accettazione e al secondo l'impegno. Noi dobbiamo imparare ad essere in grado di valutare quali sono davvero le nostre caratteristiche e poi dobbiamo decidere di impegnarci a migliorare la nostra autostima. L'autostima in gran parte deriva dalla relazione con le persone significative. Mm-hmm. Più noi ci sentiamo stimati da persone significative, più l'autostima sale. Inoltre l'autostima viene violentissimamente distrutta da una cosa che noi chiamiamo autoattacchi. Alcune persone, per amore di perfezionismo, poiché non sono mai contente di sé, fin da quando aprono gli occhi al mattino cominciano ad autoattaccarsi con una mitraglietta. Sì. Dobbiamo imparare a stare attenti a questi autoattacchi, perché per alcuni sono addirittura automatizzati. Dall'autoattacco deriva un senso di vergogna rispetto al mondo, deriva un sentimento di tristezza e a quel punto l'autostima va giù. Quindi identifichiamo questi pensieri automatici che portano ad autoattaccarci e proviamo a neutralizzarli. E la dottoressa Seri, come dermatologa, lo sa bene, molti clienti, sì, pazienti si rivolgeranno a lei proprio perché guardandosi davanti allo specchio non si piacciono, sono troppo severi con se stessi. Esatto, infatti la cosa più importante che io penso e mi sento in dovere di fare, in piacere di fare, non è tanto quello di aiutare la persona a essere oggettivamente più bella e attraente, ma quella prima di tutto di aiutare la persona a sentirsi più attraente. Se una persona si comincia a sentire più bella e si comincia a piacere, si comincia ad amare, da lì si può partire, perché tutto quello che poi viene fatto accettandosi, accogliendosi, amandosi, dà dei risultati migliori. L'essere umano non è perfetto, la perfezione è ben lontana da tutte quelle che sono le nostre caratteristiche biologiche. Chi cerca la perfezione, come giustamente ha detto lo psicologo, parte proprio svantaggiato perché non la raggiungerà mai, lo diceva anche Oscar Wilde. E questo. Infatti molti dei nostri ascoltatori ci stanno scrivendo: meglio le donne con le rughe, po' rughette femminili. Dottor Aquilar, quindi non ci resta che lavorare, non si finisce mai. Lavorare però con una particolare, come dire, con un particolare atteggiamento, e quello che ci dà delle informazioni. Il dottor Aquilar è caduto e forse l'ha fatto cadere Marisa, che ci si è fatta a posto a gomitate all'800240024 per intervenire a cuore denari. Vediamo se è lei l'ascoltatrice che ha superato. Buongiorno Marisa, sono felice di sentirla. Vediamo se Marisa ha superato l'effetto barriera, ma ci sono altri ascoltatori. Marisa, siamo da lei. Allora, io volevo chiedere qualche indicazione, in particolare per il contorno occhi, palpebra superiore, anche per il botulino. Se ne parla molto, controindicazioni ed eventualmente benefici, ovviamente. Marisa, la sua domanda richiederebbe tre puntate, ma io mi appello alla sintesi della dottoressa Seri. Marisa mi è simpatica perché si chiama come la mia mamma. Comunque, per la zona del contorno occhi bisogna vedere che ci sono da un lato la possibilità di quelle che noi chiamiamo zampe di gallina, gli americani zampe di cornacchia ed è anche peggio, oppure ci sono le palpebre cadenti, palpebre gonfie, cadenti, e superiori o inferiori sono due cose assolutamente differenti, e generalmente chi ha gli occhi gonfi ha poche zampe di gallina e viceversa. Questo succede perché l'occhio gonfio e le palpebre più evidenti sono legate anche a un, chiamiamolo, cattivo drenaggio, a scarso movimento dei muscoli periorbitali, mentre quindi le zampe di gallina aiutano un po' a fare da pompa. Meno male. Che cosa succede? Si possono applicare dei contorni occhi, e io li suggerisco sempre senza siliconi. Ci sono delle creme anche di tipo più cosmeceutico, a base per esempio di vitamina A, che agiscono molto bene, di retinolo, di retinaldeide, che agiscono molto bene per attenuare le zampe di gallina. La palpebra? La palpebra è rimasta lì, se è caduta è caduta. La palpebra è inutile, ci possono essere mille cose, l'unico trattamento efficace è l'intervento chirurgico. No. Il botulino invece corregge solo le zampe di gallina quando sono molto accentuate, bisogna farlo in quantità omeopatica secondo me, perché sennò il rischio è quello di creare occhi gonfi. La signora non capisce, ma sembra attenta, con l'occhio sbarrato. 800 24 00 24 Deborina, chi abbiamo che ha superato l'effetto barriera? Abbiamo adesso un'altra signora che è Francesca, che ci chiama da Treviso. Francesca, buongiorno. Buongiorno, e avrei piacere di fare una domanda alla dottoressa Serri, che ho controllato anche il sito per vedere in quanto mi hanno riscontrato una rosacea. Io ho 38 anni, sì, e ho sempre, non ho mai avuto problemi, diciamo, particolari al viso. A un certo punto ho riscontrato dei notevoli rossori e dei puntini. Sono andata da una dermatologa, mi ha riscontrato la rosacea, mi ha dato una crema a base antibiotica, sì, e poi mi ha suggerito di trattare nel periodo invernale la cosa con la luce pulsata. Non molto convinta, mi scusi, sono andata da un altro dermatologo che invece... Sì, dobbiamo stringere un po', mi spiace, sì, Francesca. Mi ha detto di utilizzare il laser, volevo sapere la differenza tra laser e luce pulsata. E se soprattutto vanno bene per la rosacea. Ecco, la rosacea innanzitutto è una sindrome dermatologica caratterizzata da, inizialmente da flushing, cioè arrossamenti, soprattutto nella zona delle guance e del naso. La persona si sente avvampare, pelle calda, pelle che dà fastidio, pelle che si fa sentire. Questo calore progressivamente, o questo rossore, tende a stabilizzarsi e a peggiorare in determinate situazioni. Le parti arrossate si possono ricoprire di papuline, che sono delle capocchiette di spillo rosse, o di pustoline gialle. Non ci sono in genere punti neri. Quindi io, prima di ricorrere al laser eccetera eccetera, curerei dal punto di vista dermatologico e generale la rosacea, che molto spesso si associa anche a disturbi magari intestinali, gastriti eccetera. Io la definisco la malattia dell'introverso, sono persone che solitamente parlano poco. Poi, per quanto riguarda i trattamenti strumentali, laser o luce pulsata, quelli servono a togliere il rossore, ma una volta che la fase acuta della rosacea si è risolta. Quindi bisogna risolvere il problema a monte. La dottoressa... Non mi veniva da dire, io e te non avremo mai la rosacea, se è la malattia dei timidi, temo proprio che ne avremo tanti altri, ma non questo. Dottor Aquilar, che dice? Siamo timide? Penso proprio di no. Ma invece io sa che sono timida. Pure io un po'. La timidezza è situazionale. Ma no, io parlavo di introversione. Le persone, mi scusi? Possono essere sfacciatissime nel contesto A e timidissime nel contesto B. C'è una timidezza situazionale che è anche interessante andare ad esplorare, perché per ognuno è legata ad esperienze del passato e a delle teorie implicite che ognuno di noi ha in mente su quale sia il posto nel quale si rischia maggiore vergogna ed esclusione sociale. Allora, la barriera rosa è stata superata da Francesca all'800240024, per cui la Treviso riceverà i nostri libri. Dottor Aquilar, abbiamo 30 secondi, ci lasci con un messaggio ristrutturante. Allora, dobbiamo occuparci di riconoscere le nostre emozioni, perché noi potremmo avere denaro a sufficienza ed essere belli a sufficienza e ciò nonostante essere infelici. Quindi ci conviene stare attenti a quello che proviamo e chiedere aiuto inizialmente a dei conoscenti e in casi più importanti ad un esperto, per rimettere in ordine le nostre emozioni e ristrutturare così il nostro mondo interiore. E diventiamo subito belli. Bellissime. Grazie dottor Aquilar. Grazie a voi. Per essere stato con noi, dottoressa Serri. è stata la nostra colonna. È stata la nostra colonna, adesso devo andarci a fare due chiacchiere. Grazie. In privato per i miei occhi gonfi sempre. Registrerò tutto. No, ti e prego. Vi farò sentire tutto. Abbiamo messo a disposizione dei nostri ascoltatori tutti i nostri difetti possibili ed immaginabili, perché noi siamo così. Bellissime. Aperte e sincere. Nicoletta. Allora, noi ci vediamo tra un minuto, esatto. Ma ci siamo di nuovo qui per voi a Cuore Denari domani a partire dalle 11. Noi vi aspettiamo, continuate a scriverci. Attenzione, perché c'è il portafoglio di investimenti di Nicoletta, ma parleremo anche di sogni. Quanto sogni. Costa realizzarli. A domani, Carmelo Lauricella, grazie. Marco Lombardo, Laura Vanossi. A domani, buona giornata. Cuore e Denari.